24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Aus diesem Grund wird es mir nicht mehr möglich, das Amt des Bundespräsidenten nach innen und nach außen so wahrzunehmen, wie es notwendig ist. Gli sviluppi di questa settimana hanno dimostrato che la fiducia dei cittadini non c'è più e quindi non c'è altra possibilità che abbandonare questa carica. Oggi perciò mi dimetto. Così Christian Wulff, 52 anni, ieri mattina ha posto fine, dopo nemmeno due anni, al suo mandato di presidente della Repubblica Federale Tedesca. L'accelerazione della crisi mercoledì sera, quando la procura di Hannover ha aperto un'inchiesta nei confronti del presidente per interesse privato in atti di ufficio. Su Wulff pesa l'accusa, portata alla luce da un'inchiesta del settimanale Bild, di aver ottenuto un prestito di 500.000 euro da un imprenditore amico con un tasso di favore del 4% quando era governatore del Land della Bassa Sassonia. A seguire la notizia di tre pernottamenti da 258 euro l'uno in un albergo dell'isola di Silte, un piccolo paradiso tedesco vicino alla Danimarca, pagati sempre da un imprenditore vicino al presidente che Wulff dice di avere rimborsato in contanti. A questo si aggiungono i vestiti griffati della giovane bella moglie ricevuti in omaggio, tanto basta in Germania ottenere le dimissioni del presidente. Ho ascoltato il discorso di Wulff con molto rammarico. Marico, ha dichiarato Angela Merkel, la cancelliera si è affrettata ad annullare l'impegno a Roma con Monti in programma per ieri. La Germania adesso da pensare a se stessa prima che all'Europa. Le dimissioni del presidente della Germania Christian Wulff a causa di uno scandalo finanziario creano un problema politico non da poco per il cancelliere Angela Merkel. Anzitutto era stata la stessa signora Merkel a imporre Wulff alla presidenza della Repubblica due anni fa, in parte si disse allora anche per liberarsi di un potenziale futuro rivale nel partito, e le dimissioni di Wulff arrivano comunque dopo quelle del suo predecessore Horst Köhler, anche lui scelto dal cancelliere. Ma il vero nodo per la signora Merkel è ora la successione. Subito dopo l'annuncio di Wulff, il cancelliere ha detto che il prossimo presidente verrà scelto insieme all'opposizione. Un'apertura apparente, in realtà una mossa forzata dopo la brutta figura accusata con l'uscita di scena di Wulff, e soprattutto perché nell'Assemblea federale che elegge il capo dello Stato, l'attuale maggioranza che sostiene il governo non ha più i voti per fare eleggere il proprio candidato. Per questo si riparla ora di Joachim Gauck, il pastore evangelico che due anni fa era stato il contendente di Wulff, proposto dall'opposizione, socialdemocratici e verdi, una figura molto popolare. Ma è circolato anche il nome di Wolfgang Schäuble, il rispettato ministro delle finanze, che con la signora Merkel a quanto pare non andrebbe più tanto d'accordo. Privarsi della sua esperienza nel pieno di una grave crisi come quella in corso nell'Eurozona potrebbe però essere un lusso che il cancelliere tedesco non può permettersi. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. E la cancelliera tedesca Angela Merkel ha sentito al telefono ieri il presidente del Consiglio Mario Monti e il primo ministro greco Lucas Papademos. Al termine di un colloquio definito dettagliato e condotto con spirito costruttivo, si sono dichiarati fiduciosi che lunedì all'Eurogruppo potrà essere raggiunto l'accordo sulla Grecia, l'ha riferito Palazzo Chigi in un comunicato. Anche per questo le borse europee hanno chiuso tutte a rialzo, compresa quella di Francoforte che, nonostante le dimissioni del presidente Wulff, ha chiuso guadagnando l'1,42%. Giornata positiva per le borse europee dopo la debolezza della vigilia, in attesa lunedì della riunione dell'Eurogruppo che dovrà decidere sullo sblocco del piano di aiuti alla Grecia. A contribuire all'andamento positivo dei listini è stato anche il dato sull'inflazione americana, cresciuta a gennaio meno delle attese. Milano ha chiuso in rialzo dell'1,08% con Finmeccanica che ha guadagnato il 16%, realizzando la migliore performance del FTSE MIB dopo l'aggiudicazione della commessa da 1 miliardo in Israele. Bene Pirelli più 6,3% ai massimi dal 13 dicembre 2007, in scia agli acquisti sul comparto auto europeo e alle stime di Bridgestone che si aspetta per il 2012 un rialzo dei profitti del 63%. Tre titoli negativi in calo Enel meno 1,4% dopo una serie di report negativi degli analisti che stimano una revisione al ribasso dei target e un taglio del dividendo. Male anche A2A meno 1% colpita dai realizzi, in scia all'andamento negativo delle utility e al pressione del mercato sull'incremento del debito e sulla riduzione della cedola. Livia Zancaner da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Voltiamo pagina. Missione in Asia per il commissario europeo alla cooperazione e allo sviluppo Andris Piebalg, in vista delle elezioni cui parteciperà per la prima volta il premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Ascoltiamo il commissario a microfono di Gigi Donelli. La missione della Commissione europea a Myanmar è stata l'occasione per sottolineare il cambiamento avvenuto nel paese. Dallo scorso anno, con l'incarico di guidare il governo affidato al generale Thein Sein, il mondo intero ha potuto verificare i cambiamenti importanti che il paese ha intrapreso, sia sul fronte delle libertà fondamentali che della liberazione di alcuni prigionieri politici. Non è un caso che Aung San Suu Kyi, di gran lunga la più celebre esponente del dissenso, e nonostante tutti i limiti che pure sono ancora presenti nella società birmana, abbia deciso comunque di mettere fine al boicottaggio e partecipare per la prima volta alle elezioni politiche per il rinnovo di una parte del Parlamento. Aung San Suu Kyi, che ha trascorso 15 degli ultimi 22 anni della sua vita in detenzione, è convinta che ci sia ancora moltissimo da fare per assicurare la democrazia al suo paese e che ci siano alcune iniziative specifiche su cui confrontarsi con il governo. Ma d'altra parte è anche sicura del fatto che ora può partecipare e farlo pienamente a un processo elettorale che rappresenta un ulteriore importante passaggio sulla via della democratizzazione. Le elezioni del prossimo 1° aprile, che ricordo riguardano solo una parte dei seggi del Parlamento, sono dunque da considerare un momento di transizione ulteriore per valutare l'impegno della giunta che guida il Paese. Ho ricevuto assicurazioni da parte dei vertici della Camera birmana. Mi hanno detto che faranno di tutto e tutto il necessario per assicurare uno svolgimento regolare, trasparente e pienamente democratico, cosa che l'Europa auspica e sulla quale assicureremo comunque un attento monitoraggio. Sul fronte del sostegno economico posso dire, come commissario responsabile alla cooperazione e allo sviluppo, che l'Europa assicura il suo contributo finanziario allo sforzo internazionale, compiuto in particolare dalle ONG ma anche dall'ONU, per sostenere lo sviluppo locale della popolazione nelle aree rurali e si impegna anche in favore delle minoranze nazionali. Uno sforzo d'aiuto che credo davvero la popolazione di Myanmar meriti. Un gesto importante, così il segretario di Stato americano Hillary Clinton ha definito la decisione dell'autorità di Teheran di inviare una lettera al capo della diplomazia dell'Unione Europea, Catherine Ashton, dicendosi pronta a riprendere i negoziati sul programma nucleare iraniano. E ora parliamo di quote rosa non rispettate. Questa volta non siamo gli unici a non aver fatto i compiti a casa, almeno stando alla bacchettata arrivata dalla commissaria alla giustizia Viviane Reding all'audizione pubblica al Consiglio Lavoro a Bruxelles. Solo 23 società europee, tra le quotate in borsa, hanno sottoscritto infatti l'impegno volontario a portare la quota delle donne nei consigli d'amministrazione al 30% entro il 2015 e al 40% entro il 2020, appello lanciato da Bruxelles quasi un anno fa. Nei fatti, i dati ad oggi sono ben diversi. In Europa solo il 12% dei membri nei CDA delle più grandi imprese quotate sono donne, appena il 3% se si considerano le posizioni dirigenziali. Le migliori sono Norvegia, Francia, Spagna e Olanda. In Italia la legge entrata in vigore nell'agosto scorso stabilisce che da quest'anno i CDA delle aziende quotate in borsa o a partecipazione pubblica debbano essere composte almeno per un quinto da donne. Nel 2015 la quota aumenterà fino ad un terzo. Ma i mesi cruciali saranno i prossimi in vista della nuova stagione di nomine. Il ministro Fornero ha assicurato che vigilerà e non farà sconti sulle multe previste. A livello di principi, ha spiegato Fornero, in Italia siamo avanti a livello della Svezia, ma a livello pratico lasciamo molto a desiderare. E allora, da Bruxelles come da Roma, il messaggio è lo stesso. La svolta ora non può essere rinviata. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura ci spostiamo in Lussemburgo per parlare di un'importante sentenza della Corte di Giustizia Europea in materia di diritto d'autore e responsabilità dei social network. Un social network o qualsiasi altra piattaforma che ospita contenuti generati dagli utenti deve rimanere neutrale, non può controllare i file che vengono caricati anche in modo illecito e un giudice non può imporre alcun filtro per bloccare questi contenuti. Sarebbe troppo costoso e violerebbe la privacy degli utenti. La Corte di Giustizia Europea si esprime così sul caso che vede protagonista la SABAM, la SIAE belga, che nel giugno 2009 aveva chiesto al Tribunale di Bruxelles di obbligare il social network Netlog ad intercettare tutte le opere coperte da diritto d'autore scambiate dagli utenti. La Corte dice in sostanza che Netlog dovrebbe controllare tutti i file e installare un sistema complesso e costoso per capire cosa è tutelato o no. In novembre la Corte si era espressa in modo analogo sugli Internet Service Provider. Anche a chi ci fornisce la DSL non può essere imposto alcun dovere di filtraggio. La sentenza ha valore immediato in tutti i paesi europei e questo naturalmente non significa che scambiare file coperti dal diritto d'autore su Internet non sia un illecito punito dalla legge. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questo appuntamento con 24 Ore in Europa. Grazie a Fabio Cantadone in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.